Torniamo in studio perché ci sono delle presenze, possiamo manifestarci. Grazie. Ciao. I microfoni però, senza microfoni. Eccoci. Oh. Eccoci. Potete anche tirarli fuori perché insomma... Siamo pronti con la musica? Vogliamo... Cominciamo sorpresa. Alla grande? Cominciamo alla grande, dai, vai. Ti voglio bene. Comune, ma visto così sembrerebbe un gesto d'amore nei confronti di qualcosa di troppo amministrativo. Esistono dei beni comuni e dei beni pubblici. Qual è il mezzo? Qual è il fine? Io intendo anche come finezza, non solo come morte. Allora vuole dire che deve morire qualche cosa a cui vuoi bene per far contento il comune? Fondare, fondazione, rifondare, fondamenta, non rifondazione. Diciamo soltanto bene, e non è un giudizio di merito, non è merito, non è merito che non è giudizio, e quindi la fondazione con una F sola è una forma navale di qualche cosa che deve stare su. Come mai siamo arrivati qua così? Come mai sono arrivati là così? Non possiamo più arrivare qua e là così. Vorrei che queste cose fossero dette a prescindere dal dirlo, vorrei che queste cose esistessero a prescindere dall'esistere anche prima del poterle pensare. Quindi il tema dell'impensato, dell'inaudito, dell'indicibile, dell'incommensurabile. Non è possibile che la parola teatro, se gli togli una lettera diventi tetro. Allora io penso che si possa arrivare in orizzonti che noi non vediamo né verticalmente né orizzontalmente. Il tema non è né culturale né artistico e non è neanche un tema, è qualcosa di molto di più. Se si riuscisse con una fondazione a parlare di questo molto di più costantemente, io non sarei felice, ma sarei entusiasta. Posso dire una cosa? Con questo video me lo sono sentito per 2 settimane quest'estate a Festa Ambiente, perché apriva tutte le proiezioni cinematografiche. Io chiaramente ho cercato di stupirti in qualche modo, ma mi sa che era proprio... Vabbè, era Bergonzoni che bravo, abbiamo coinvolto bravo. Per questa comunicazione, perché oggi parleremo in modo pacato, calmo e anche quasi... poetico. Sì, omogeneizzato direi, di beni comuni. Mi piace questo approccio. Vero, perché io lo vedo dai tuoi occhi che vuoi le cose facili come noi solo sappiamo fare, ed è per con questo il linguaggio nostro alla Bergonzoni che abbiamo due voci fantastiche quest'oggi. Non so se ci presentiamo, noi diciamo i nomi, no, ma non abbiamo tempo perché è un treno in corsa. Ciao. Sono Simona. Ho fregato il microfono, ho detto il mio nome. Allora, no, noi siamo qui una piccola Teatro Valle Occupato, ovviamente abbiamo una piccola delegazione in questo momento Radio Onda Rossa. Diciamo soltanto un trentesimo di quelli che siamo in realtà. Allora, diciamo che partiamo con quello che facciamo questa settimana al Valle. Sì, ma dai, partiamo da stasera. Partiamo da stasera. Questa è la settimana in cui continua lo spettacolo di Sant'Eramo, la prima nazionale del Valle Occupato, e quindi fino a domenica la rivincita. E questa sera c'è una cosa in più, perché a seguire lo spettacolo c'è un incontro pubblico con l'autore, la compagnia e anche i redattori di Teatro e Critica, quindi un motivo in più per venirci a trovare allo spettacolo. E aggiungo una cosa, sì, che giovedì, dopodomani, Michele Sant'Eramo e Vittorio Continelli saranno qui in radio con una lettura. Perfetto. Una storia d'amore e di calcio. Fantastico, tra l'altro il testo che va in scena ha vinto il premio Riccione nel 2011. E diciamolo. E contemporaneamente Sant'Eramo è impegnato in un laboratorio di formazione al Valle Occupato, dalle 14 alle 19 tutti i giorni c'è questo laboratorio di drammaturgia, sempre fino al 20 gennaio. L'unica cosa, noi i laboratori teniamo sempre aperti agli uditori, in questo caso... Siccome in questa settimana, in questo mese siamo veramente pieni di attività, Sant'Eramo purtroppo sta in una sala piccola e non possiamo aprirla agli uditori, però seguiteci sempre, informatevi, perché gli altri laboratori invece sono tutti aperti al pubblico. Allora, questo siamo arrivati comunque a mercoledì, quindi da stasera Michele Sant'Eramo alle 21, mercoledì ancora Michele Sant'Eramo con la rivincita alle 21. giovedì pomeriggio invece, cioè dalle 19 alle 21, lo sportello SIAE, e quindi è uno sportello Legal Help che dà varie informazioni ad autori, scrittori, artisti riguardo a problematiche legate alla SIAE. Ora ci sono due avvocati con i quali però bisogna prendere un appuntamento. scrivere a diritto agli autori @gmail.com. Bellissimo, bellissimo. Così quindi funge. Scrivete ai due avvocati così per avere l'appuntamento e parlare con gli per, diritti agli autori. Dopo 19 che... alle 21 ogni settimana. Poi c'è la 21 Michele Santeramo con la rivincita. Venerdì 18 invece partiamo con un progetto nuovo che tra l'altro è del tavolo, uno dei tavoli che si è creato al Valle con anno i soci fondatori. Mezzo. Quindi un tavolo fatto dai soci fondatori e di cui poi vi parlerò più approfonditamente. E venerdì alle 17.30 c'è questo primo incontro che è Poetiche nel teatro per l'infanzia, metodi ed esperienze, un incontro pubblico con Fabrizio Pallara, Susanna Odevaine, Maria Teresa Ferretti Rodari e Mario Di Rienzo. E poi vi parlo meglio. Alle 21 la rivincita di Michele Santeramo. Siamo arrivati a sabato. Sabato. Sabato alle 16 abbiamo la nostra consueta visita guidata del teatro, questi fantasmi. Quindi per chi volesse può venire in teatro qualche minuto prima e degli occupanti del Valle appunto vi condurranno attraverso i segreti e i ricordi di questo spazio antico e meraviglioso. Appuntamento alle ore 16 davanti al teatro. Bene. Mi piace anche il ritmo. Siete alle 21 la rivincita di Michele Santeramo, vincitore del premio Riccione 2011. Andiamo avanti, domenica 20. Domenica c'è la pomeridiana della rivincita di Michele Santeramo alle 18 e purtroppo finisce. Insomma, una ricca settimana. Una ricca Venite settimana, volevo fare un'anticipazione perché il 29 gennaio al Valle c'è una proiezione di un film che è stato proiettato quest'estate al Festival di Locarno di Edoardo Gabrielli, Padroni di casa, con Elio Germano, Valerio Mastandrea e Gianni Morandi, ed Elio Germano sarà in sala con noi per la proiezione. Guarda caso. Sì, il film è, appunto c'è anche Gianni Morandi come attore. Esatto, non sarà altro. Tra l'altro Gabriellini è stato ospite nella mia trasmissione di cinema, quindi del film ne abbiamo già parlato da questi microfoni. Ci occorre ringraziare tutti per quelli che hanno fatto il famoso click sul bando Che Fare. Siamo riusciti a rientrare nella rosa dei 5 che sono diventati 6 progetti ammissibili al finanziamento di 100.000 euro. Siamo arrivati quarti con un totale di 4.373 grazie voti. Niente male, no? Anche la radio penso che un contributo in questo ce l'ha dato, chissà, faccia un trillino chi ha votato per crisi. Grazie per ogni trillino. E dunque no, è andata bene, quindi bisognava comunque ricordarlo, che sembriamo sempre che stiamo con una foga di richieste, però veramente è così un po' il Valle che propone tante cose. Hanno fatto un trillino, grazie. È uno dei grandi. appunto riguardo a questo, io la settimana scorsa, io mi occupo di astrologia, nel senso che seguo i ragazzi da un punto di vista astrologico, cerco di consigliarli su quali sono le azioni migliori da compiere in base agli specifici transiti. Ma ti danno ascolto? No. Infatti io l'altra volta ho un po' smorzato i loro entusiasmi perché questa caccia al voto eccetera. Io ho detto già la scorsa volta che Giove nella quarta casa non fa presagire a una vittoria di tipo esteriore, ma più a delle vincite casalinghe, quindi di non disperdere eccessive energie in cose di questo genere. Piuttosto organizzare un gruppo di formazione per riparazioni idrauliche, oppure appunto prendersi cura del teatro, no? In una maniera più intima. Però ecco, insomma, mi sono sentita un po' in colpa e ho cercato di mettere dell'energia positiva affinché appunto il Valle riuscisse a raggiungere la quarta posizione. Sono molto stanca perché è stata una settimana molto faticosa, cercherò di sostenerli, ma diciamo gli astri non sono propriamente a favore per questo motivo. Però insomma, forza ragazzi, perché tutto può succedere. Insomma, le stelle danno delle indicazioni, ma poi il Valle ha un preciso segno zodiacale che è Gemelli ascendente Capricorno. Però bisogna anche dire che il Teatro Valle occupato è costituito da una serie di persone, e ogni persona ha dei propri transiti e delle proprie energie. Quindi sì, non mi dilungo oltre, passo la parola. Sì, questo è quello che dovevo dire, poi magari intervengo dopo. Hai perso le gambe? Sei rimasto paralizzato durante un incidente? Ti hanno gambizzato? Niente paura, le protesi Gambinus ti riporteranno in piedi. Le protesi di ultima generazione Gambinus sono antiproiettili, antiscivolo e antistupro. I centri Gambinus, specializzati nel trattamento di protesi per handicappati, anche gravi, ti aspettano. Tutti i giorni a vostra disposizione per una prova gratuita. Vieni nel centro Gambinus più vicino a casa tua. Gambinus, le protesi che aiutano a correre. Beh, intanto no, ci sono arrivate sette trilli, quindi grazie. Ok. A questo punto continuiamo a parlare del tavolo dei soci fondatori che si è costituito per il Teatro Ragazzi, e ce ne parla Simona approfonditamente. Va bene, allora, praticamente abbiamo scritto un progetto che si rivolge alla città, e soprattutto quello che vogliamo analizzare, vogliamo capire meglio, è il rapporto che c'è tra il teatro e la scuola. Yes. Quello che abbiamo organizzato sono due agora, e quindi degli incontri pubblici per analizzare, per anche capire quali sono le poetiche del teatro per l'infanzia e quali possono essere le metodologie di educazione al teatro per i bambini. Il primo agora c'è venerdì, quindi questa settimana, venerdì 18, che è di quello di cui vi parlavo prima, che è Poetiche nel teatro per l'infanzia, metodi ed esperienze. Questo è specifico per parlare, approfondire delle poetiche, del perché vengono scelte alcune poetiche, di quali sono perché qualcuno decide di fare teatro per ragazzi. Per noi è importante anche capire, certo, da dove vengono le spinte. Certo. E quali appunto anche quali sono poi i punti di riferimento anche oggi in Italia. L'altro incontro, l'altro agora pubblico è venerdì 15 marzo, quindi stiamo parlando di un progetto a lungo termine che comincia questo venerdì, sì, e finirà il 5 maggio. Ci sarà modo anche di riparlarne, chiaramente. Certo, magari. E questo qui è i rapporti tra teatro e scuola. Sarà presente il Valle Occupato e Giuseppe Fusacchia, che è il presidente dell'ASAL, che è l'associazione di tutti i presidi del Lazio. Poi stiamo organizzando una giornata aperta completamente alla città il 21 aprile. Faremo una chiamata a degli artisti che vogliono partecipare, che ne hanno voglia. L'idea è quella di invadere la strada, la città, di performance per bambini. Vediamo, stiamo individuando un tema, ci piacerebbe che fosse che ad una determinata ora, per mezz'ora, a Roma succedesse che Roma diventa teatro, appunto, soprattutto teatro per bambini. Certo. Da questo progetto sono nati dopo varie riflessioni sono nati dei laboratori, e abbiamo pensato di fare dei laboratori esperienziali per avere appunto un contatto con le scuole. Allora abbiamo pensato di lavorare con le maestre, quindi questi laboratori esperienziali sono aperti alle maestre, sono rivolti alle maestre. Ce ne sono quattro, uno al mese di domenica. Ve li dico molto di corsa. Domenica 3 febbraio, la morfologia della fiaba di Prop a cura di Simona Senzacqua. Domenica 10 marzo, creatività e apprendimento a cura di Simona Amendola. Domenica 7 aprile, il suono della voce dalla parola al canto a cura di Gabriella Greco. Domenica 5 maggio, corpo giochi a cura di Monica Francia. Per iscriversi a questi laboratori, valle.ragazzi@gmail.com, mettendo in oggetto il nome del laboratorio e raccontandoci, facendoci una presentazione in forma di racconto. Poi l'ultimo progetto che il Valle sta dedicando alle scuole è Tanzsight, che è un progetto in collaborazione con una compagnia di danza di Berlino. Questo è tutto. Per il momento io vi esorto magari ad andare sul sito che è www.teatroalleoccupato.it, certo. E ad avere anche maggiori informazioni e a scriverci. Ciao. C'era una volta un ape, non voleva costruire, le altre fatte le borse andarono al mare. C'era una primavera, non voleva fiorire, gli innamorati non sapevano che regalare. C'era una pecora pigra, non voleva saltare, nessuno si poteva addormentare. C'era una volta un gufo, non voleva gufare, gli invidiosi si dovettero rassegnare. E tu dal passo dei tuoi cinque denti dici che non vuoi mangiare. E tu dal passo dei tuoi 80 centimetri dici che non vuoi dormire. Chiamiamo i nostri amici e andiamo a giocare. Chiamiamo i musicisti e facciamo suonare. C'era una volta una cicala, non voleva cantare, le formichine tristi si No, volevo semplicemente fare un appunto rispetto a tutto questo discorso fatto sui ragazzi, sui bambini. Dico sì perché? Perché sempre questo Giove in quarta casa facilita la procreazione. Quindi, ragazzi, felicità. Del teatro Valle Occupato, siamo cercate pronte. Di favorire la situazione, cercate, possiamo parlare di procreazione in senso fisico, naturale, ma anche in senso spirituale. Quindi va bene i bambini, circondatevi di bambini, di famiglie, cercate voi stessi di allargarvi. E torniamo al discorso della famiglia allargata della dell'altra allargata. Puntata. E siamo su questo punto, su questo punto mi fermo, quindi mi affido. Lo faremo. Ci sono cose che nessuno dovrebbe sapere e per questo c'è Master Assicurazioni. Salve, sono il rappresentante della Master Assicurazioni. Da anni noi operiamo nel campo delle assicurazioni automobilistiche e fidatevi, ne abbiamo viste di famiglie rovinate per piccoli incidenti da niente. Figli neopatentati o mogli distratte che per una riga sulla fiancata o uno specchietto saltato hanno compromesso per sempre il loro rapporto col pater familias. Le nostre polizze prevedono una ricca gamma di scuse da raccontare in caso di sinistri, che verranno confermate e sostenute dai nostri operatori telefonici, addestrati adeguatamente in caso il pater familias fosse particolarmente sospettoso. Ricordate, Master Assicurazioni è la soluzione che nasconde il problema. Allora, si parla di beni comuni. Oh. Abbiamo qua uno studioso di beni comuni che è arrivato al Valle perché insomma ricercava questi beni comuni, era insomma nelle varie biblioteche, università, e lui proprio si era appassionato di questi beni comuni, no? E la Costituzione, insomma, parole molto importanti, ed è arrivato da noi. Allora niente, insomma, proviamo a capire con lui cosa sono questi beni comuni, perché il Valle ha deciso di diventare un bene comune. Vai Guido. Insomma, allora, intanto bene comune, adesso siamo in campagna elettorale, si fa tanto vociare di questo bene comune, no? Bene comune, tutto è bene comune sembra, no? Italia bene comune. In realtà è un concetto, intanto è una categoria giuridica, è un istituto giuridico molto preciso. C'è stato uno studio della commissione del professor Rodotà, presieduta da lui, sui beni comuni nel 2007, che ha portato avanti un discorso molto approfondito, soprattutto sulla riforma della categoria della proprietà. Quindi proprietà pubblica, proprietà privata, e poi ci sono questi beni comuni che non sono né beni pubblici né beni privati. Sì. E qua sta, diciamo, la novità e la spinta in avanti anche per un'idea diversa di tutela di questi beni che sono fondamentali per l'esercizio dei diritti primari della persona, no? Adesso ci sono seri problemi perché questi beni, il Teatro Valle è un esempio degli istituti culturali più importanti, istituzioni culturali più importanti, ma adesso abbiamo esempi di ospedali, scuole che piano piano vengono comunque svenduti, privatizzati, vengono tagliati i fondi per il pubblico proprio per permettere anche questa svendita del patrimonio ai privati per esigenze, diciamo, come ci vengono a dire, di contrasto al debito pubblico. Scusa, ti interrompo perché voglio, insomma, proviamo a capire bene, per esempio, la differenza tra bene comune e bene pubblico. Perché il bene comune potrebbe essere un'alternativa al pubblico? Non dovrebbe già essere, insomma, le amministrazioni, essere, insomma, tra un po' si va a votare, no? E noi votiamo dei nostri rappresentanti. Non dovrebbero essere loro che si occupano, no, del bene comune? Perché c'è questa necessità, appunto, di una nuova categoria giuridica? Beh, diciamo che è un'altra idea che è dovuta sicuramente anche ai tempi che viviamo. Bene pubblico è un bene gestito da un'amministrazione, quindi dovrebbe esserci una buona amministrazione. Diciamo che questo viene superato e problematizzato dal fatto che ci troviamo in un momento in cui la rappresentanza è in grande crisi e viene messo in dubbio addirittura tutto quell'impianto di Stato sociale che è stato conquistato nei decenni e che tutelava appunto l'esercizio di diritti fondamentali come salute, cultura, istruzione. Quindi i beni comuni si inseriscono in questo ragionamento qua, che è anche un momento storico ben preciso, e sono richiamati dal famoso articolo 43 della Costituzione, che permette di affidare a comunità di lavoratori e utenti la gestione di beni di interesse generale. Quindi diciamo che cambia proprio la prospettiva di responsabilità da parte della società civile nel gestire e nel tutelare anche per le generazioni future dei beni che sono essenziali. Per cui mi pare che già questo discrimini parecchio, cioè il bene pubblico non è un bene che viene tutelato in questo senso per i problemi relativi alla rappresentanza, a tutti i problemi relativi alla corruzione, al dominio dei partiti e di tutto ciò che ben conosciamo. E aggiungerei che spostando, come dire, l'asse da un punto di vista giuridico, dalla proprietà alla funzione, quindi non è più appunto tanto la questione di chi è proprietario del bene, esatto, ma le condizioni d'uso del bene, cioè quindi la gestione, certo, come si usa, allora forse la va ricercata. E quindi quello che appunto stiamo provando a fare al Valle è, per esempio, la cura dello spazio, l'amore per lo spazio, l'amore anche per se stessi. Assolutamente. Anche perché poi, insomma, all'interno di uno spazio configurato in questo modo, in cui c'è una gestione, una cura partecipata, dopo diventa anche un laboratorio proprio anche per l'individuo, per la persona, che quindi si modifica nella sua atteggiamento di relazionalità, cioè impara a dialogare, a confrontarsi, a lavorare insieme, a curare uno spazio insieme, uno spazio che è di tutti. Quindi cambia proprio la prospettiva, che non è più un obiettivo di interesse individuale, ma è un fine condiviso per cui tutti lavorano e collaborano. Quindi è proprio una svolta, diciamo, non solo in ambito sociale, ma io parlerei anche in ambito individuale, cioè deve esserci un cambio culturale, appunto, di come noi ci relazioniamo, di come lavoriamo insieme per vivere anche in un modo migliore, avere delle prospettive per il futuro. Insomma, sono tutte le domande che a livello sociale e politico ci poniamo ormai da un po' di tempo, direi. Hai detto individuale, forse questa è una parola importante, perché forse i beni comuni, quello che riescono a mettere in campo è che forse si può appunto attraverso questa nuova uscire un po' dall'individualismo, uscire un po' anche dalla solitudine, no? Perché negli ultimi 20 anni, insomma, quello che ha prodotto il berlusconismo, la televisione, eccetera, è veramente la solitudine, è veramente relegarsi a casa. Allora forse anche reinventare un po' un modo di stare insieme, un modo di socializzare, un modo di collettivizzare, insomma forse i beni comuni possono proporre veramente un'altra filosofia, insomma, essere una nuova maniera di fare democrazia. Assolutamente. Io ho un accenno, certo, visto che comunque stiamo dando un'infarinatura. In che misura il singolo, il cittadino e poi invece l'istituzione lavoreranno all'interno del progetto fondazione, di quello che verrà fuori da questo progetto? In che modo diciamo c'è il peso del privato, chiamiamolo tra virgolette, anche se poi è il singolo cittadino, e l'istituzione, la collettività, la comunità? Beh, diciamo che questo è alla base dell'idea di aver utilizzato uno strumento di diritto privato come la fondazione, alla quale adesso, insomma, abbiamo il Teatro Vale Bene Comune ha più di 5.000 soci fondatori ormai, e abbiamo organizzato anche assemblee di questi soci in cui tutti insieme si sono divisi in tavoli di lavoro, come era accennato precedentemente, che sono messi al lavoro in vari ambiti a seconda, tra l'altro, della passione del socio fondatore e di che cosa era portato a seguire con più passione e competenza, naturalmente. Ma diciamo che il fatto è proprio, parlavamo prima di un laboratorio, no? Quindi è un modello che si sta costruendo e si costruisce con questo cambiamento proprio di atteggiamento culturale del cittadino che dà il proprio tempo e la propria cura, sì, di uno spazio, di un bene che dopo è funzionale a un proprio diritto fondamentale, per l'appunto. Quindi l'idea di utilizzare questo strumento giuridico della fondazione è proprio perché all'interno di questo strumento si può molto lavorare su un modello diverso. Allora, torniamo in voce con Fiorenza Menni di Teatrino Clandestino. A me manca ogni tanto, ho dei buchi di voce, la tosse. Allora, Fiorenza, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a tutti. Benvenuta ad Onda Rossa. Allora, grazie. Qui c'è tra l'altro un'ampia rappresentanza del Teatro Valle Occupato, come la scorsa settimana. Evviva. Allora, con te per parlare un attimo, fare un bilancio del laboratorio, sì, che hai tenuto al Valle e che poi si è spostato. All'Angelo Mai come punto, come base, come aggregazione, poi in realtà il quartier generale del laboratorio era alla Hertz. Allora, raccontacelo un po'. Dunque, allora, noi abbiamo fatto queste giornate, giornate di laboratorio all'interno di un progetto che si chiamava Punto di Vista. Sì. Punto di Vista prevedeva tre tipologie laboratoriali, diciamo così. Uno che era curato da Giovanni Brunetto ed era un lavoro su palco per in qualche modo per tecnici di larghe vedute speciali, nel senso che quello che Giovanni ha portato, oltre chiaramente la sua sapienza da parco, conoscenza, ma quello che a lui importava era che in qualche modo si potesse condividere anche una qualità dello stare, dell'accoglienza dell'apparato, diciamo, dell'apparato tecnico sul palco. Questo era quello che a lui più interessava, se non anche quello di condividere ovviamente la sua esperienza. Poi un laboratorio curato da Andrea Moxesmondi insieme a me, con gli occupanti, cioè proprio a loro dedicato e a loro riservato, nel senso che a noi interessava in qualche modo entrare in relazione con loro per una nostra qualità come ricercatori, ci piace imbatterci principalmente nelle comunità e nelle situazioni di realtà, e piuttosto che fare loro, non so, interviste o che so io, l'idea era quella di poter osservare chi in questo momento ha operato una scelta di vita molto precisa, e per noi questo ha un valore civile molto interessante, e ci sembrava il modo migliore per fare questa ricerca, per buttare quest'occhio approfondito, quello di creare un percorso laboratoriale. In questo laboratorio in realtà è stato indicato loro è stato creato con loro un percorso di condivisione rispetto alla possibilità della descrizione di quello che incontrano. Quindi il loro avere da loro la restituzione di un punto di vista sulle cose, in realtà era un mettere gli occhi su di loro, un focus su queste persone. Questa stessa procedura poi è stata utilizzata con un gruppo di esterni con i quali ho condiviso appunto la modalità di questo lavoro, che parte comunque sempre dalla possibilità di avere un arricchimento per chi intende interpretare, per chi intende essere attore, scrittore, autore in qualche modo vicino al teatro. Questa stessa cosa è stata fatta poi all'Angelo Mai, ma in quel caso, un laboratorio aperto a tutti, ma in quel caso avevamo identificato il luogo da osservare. Mm-hmm. E avevamo deciso insieme al collettivo, insomma, dell'Angelo, che il luogo di osservazione sarebbe stata la ERZ, che è una scuola che ha avuto che da tempo è occupata da un comitato di occupazione abitative, da alcune famiglie. E l'idea nostra era appunto quella di osservare, guardare e descrivere il quotidiano di questo condominio anomalo. Senti, dato l'incontro che avete avuto con la comunità Valle, e visto che stiamo facendo anche un bilancio di questo laboratorio, che bilancio ne faresti di questo incontro? Principalmente che mi sono trovata a lavorare con degli attori di qualità, e questo è sempre molto interessante, e chiaramente è inutile negare che la loro istituzione, le loro descrizioni erano comunque pregne di una qualità, di uno sguardo civile potente. Quindi, se devo dire, è stata un'esperienza molto, molto bella. Bene. È un po' riduttivo che dire di più, se non sarebbe molto bello poter far sentire a tutti voi la qualità, il fatto che noi abbiamo cominciato a lavorare prima proprio sul teatro, e avevamo costruito ovviamente io e Andrea un percorso di senso rispetto a quello che loro sarebbero andati a descrivere, quindi siamo partiti prima dall'interno del teatro, poi abbiamo semplicemente aperto le finestre e le porte sull'esterno, quindi loro da dentro descrivevano quello che avveniva sul loro paesaggio immediato appena fuori dal teatro. Il teatro ovviamente si affaccia su vari punti, no? Non c'è solo la porta d'entrata, ma dentro è pieno di finestre, altre porte, eccetera. E poi dopo è stato chiesto loro di andare ad osservare e poi restituire la descrizione di alcuni palazzi del potere, no? del nostro paese. E chiaramente queste sono state per loro anche avventure di perché un conto è passare comunque per la città, e un conto è stare magari anche più di un'ora ad osservare, non so, il Viminale o altri palazzi, che in qualche modo restituiscono sempre un significato forte e pesante del tuo essere cittadino. Fiorenza, ciao, sono Laura. Ciao Laura. Allora, senti, ti volevo fare una domanda proprio sul fatto che sia appunto al Valle che con l'Angelo Mai, che tra l'altro è rientrato in occupazione, ma proprio avete scelto dei luoghi occupati, no? Proprio una è un'occupazione abitativa e quella del Valle è un altro tipo di occupazione, però sempre occupazione. Mi volevo proprio chiederti appunto come mai avete operato questa scelta molto precisa, quindi cosa muove un artista che si interessa alle occupazioni e ne fa diventare materiale di lavoro, insomma? Le occupazioni bisognerebbe metterle tutte in fila, contarle e contare tutte le persone che, tutti i cittadini, diciamo così, dico sempre questa parola con grande ironia ovviamente, che però dedicano la loro vita, le loro scelte a questo tipo di percorso. Sarebbe molto interessante mettere tutto in fila, contare tutte queste persone, guardare, elencare tutte le azioni di alta qualità che vengono fatte in nome di quello che appunto viene continuato, si continua a definire insomma semplicemente come un'occupazione, in realtà è molto più ampio. E l'idea di lavorare in queste due situazioni chiaramente ha a che fare con la sorpresa e la meraviglia dell'alta qualità che molte persone praticano quotidianamente. Bene, grazie. Grazie, è stato un piacere. Dove è possibile avere tracce di questo lavoro, magari in rete? Sicuramente sul sito del Valle, è stato fatto da due videomaker fotografi del Valle, un bellissimo lavoro, una bellissima documentazione sia fotografica che video, che consiglio appunto perché hanno restituito a loro volta una precisione molto divertita e ben fatta di quello che sono state le ore passate insieme. E tra l'altro con l'Angelo Mai, che abbiamo appena iniziato questo lavoro sulla Hertz, l'idea è quella di continuare a lavorare, di continuare a fare questo approfondimento attraverso questa struttura, insomma questa grammatica di descrizione e restituzione. Allora, a risentirci presto. Certo. Un abbraccio. Io vi a voi tutti quanti un grande abbraccio. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. La Perditempo S.P.A. vi ricorda la sua vasta serie di prodotti per la perdita di tempo sia nel campo lavorativo che in quello del tempo libero. I prodotti della nostra azienda, leader da anni nel settore, sono garanzia di qualità e efficienza, come ad esempio Appuntamento a Cazzo, che permette di perdere e di far perdere fino a 2 ore su ogni singolo appuntamento, sia lavorativo che privato. O Famo una roba tipo, con il quale si possono trascorrere anche 8 ore a parlare in maniera totalmente inconcludente di argomenti apparentemente interessanti, senza mai correre il rischio che da ciò nasca alcuna possibilità concreta lavorativa. La Perditempo S.P.A. vi invita inoltre a provare gratuitamente il nuovo modello Laboratoriando, particolarmente adatto all'attuale periodo di crisi, visto che è in grado di far trascorrere un intero mese di disoccupazione in apparente attività creativa e fornendo un saldivifico stato di soddisfazione e autostima. Laboratoriando è a disposizione di tutti i partecipanti a cavi artistiche. Vi preghiamo di fornirci un parere sulla sua funzionalità. Grazie e buona perdita di tempo a tutti. Beh, direi che introduzione migliore non poteva esserci che per il nostro progetto Cavie, che è già partito da diversi mesi e che la prossima settimana avrà un altro appuntamento. Allora ne parlo anche con Fabrizio Parenti, che è qua presente. Ciao. Eccoci qui con Cavie Artisti. No, mi sa che l'hai spento. Mi sa che l'hai spento. Oh, spento e l'ho riacceso. Ecco, questo è lo stato appunto delle cose. E Cavie Artistiche che riparte dal 21 fino al 27 per un secondo appuntamento con Carlo Gabbardini, con Cristian Cerasoli, con Walter Leonardi che si aggiunge, pensa un po' te. E quindi diciamo che è un laboratorio che sta andando molto bene. Credo che tutti noi partecipanti siamo molto contenti di come sta andando. Sta prendendo le direzioni molto interessanti. Credo che si potrà parlare già nei prossimi tempi di un qualcosa che incomincia a costruirsi a livello produttivo e come format sia su più campi. Dimmi anche te, Laura. Sì, l'idea è quella, l'idea appunto che da cui siamo partiti è intanto il fatto che in Italia manca in questo momento una scrittura, che è quello su cui in qualche modo si muovono tutti i nostri laboratori che facciamo al Valle, una scrittura sul contemporaneo e anche proprio una scrittura sul comico, sulla commedia, cioè non è non, la commedia all'italiana come era negli anni 60 non esiste più, non ha più quella capacità di raccontare il presente, e quindi usare proprio l'idea della commedia, della comicità con la sua potenza distruttiva e irriverente, no? Una risata vi seppellirà, appunto, questa è l'idea. E in più c'è questo fatto della scrittura collettiva, in qualche modo, cioè si sta creando veramente un gruppo molto interessante che alterna momenti di attorialità a momenti di scrittura in cui tutti sono un po' tutto, e questa secondo me è anche una dinamica molto interessante, uno perché permette di avere una costruzione di materiale molto più larga, in qualche modo con delle prospettive incluse molto più larghe, e poi comunque perché c'è dentro tutto un percorso che è appunto quello che dicevi te della commedia. Ricordiamoci sempre che tutto questo avveniva perché c'erano gruppi di sceneggiatori che lavoravano comunque in grande relazione con registi e con gli attori, e quindi comunque quel meccanismo lì è forse quello che va ripreso in mano per poter cambiare la direzione. Sì, infatti è quello che è accaduto già nel primo laboratorio La mia violenza quotidiana, che abbiamo fatto già con Cristian e Carlo Gabardini, e dove appunto uno arrivava, gettava un'idea, qualcun altro la raccoglieva, scriveva un pezzo e così si è costruita una scena quasi fatta e compiuta di un breve, forse sketch, forse spettacolo teatrale, forse prodotto televisivo. Ancora su questo stiamo capendo, però la potenzialità che sta uscendo da un gruppo che lavora a tappe, a incontri regolari durante i vari mesi e che scrive e produce è comunque molto potente, quindi è quello su cui stiamo lavorando, e questo laboratorio è aperto agli uditori, anzi a volte alcuni uditori si sono uniti c'è stato al gruppo, sono diventati il salto della quaglia, uditore, via, boom, esatto. Per cui non c'è una reale distinzione, no, infatti, no? Qui ammucchiati lì insieme, per cui no, è abbastanza interessante. Vi invitiamo tutti, chi è interessato a questo tipo di percorso, appunto, a partecipare, a capire anche cos'è, perché di solito queste cose sono più facili a vederle che a spiegarle, per cui sempre per cui venite lì, che vi posso dire, insomma, ecco, stiamo lì, per cui voi venite dal 21 sì, dalle 11 alle 19. Alle 19, se non sbaglio, in realtà comincia il 23 il laboratorio, però appunto venite a trovarci, ci sarà anche Crisi, che è l'altro laboratorio di scrittura. Sì, c'è anche Cristian Raimo, se non sbaglio, insomma, il 22, c'è di tutto e di più. Un'iperproduzione e ci si incontra tutti e tutte. Sì, esatto. Qualcosa succederà. Bene, ci siamo, che dici Emiliano? Tu che eri qui con me a darmi una mano alla regia, mi sembra che questa... Già questa settimana molto cadenzati, alternanza di voci, insomma mi pare che stiamo acquisendo, eh? Stiamo impossessando del mezzo, non appropriando, perché noi siamo contro la proprietà, ma forse verso il possesso. Ma potremmo quindi occupare la radio, abbiate paura. A stuzzicare, sentirete ancora... Bene, alle settimane prossime a questo punto, perché adesso è il momento dell'agenda.